Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, sono le 8:21, eh? Sono le 8:21 in questo venerdì che non è fine settimana, perché io faccio il programma oggi pomeriggio, domani mattina. Mi hai fregato subito il refren. È venerdì, Oscar. No, venerdì non significa nulla, cioè si lavora sabato, c'è anche sabato. Urliamolo insieme, Oscar. C'è anche sabato. Si lavora, ragazzi. Si lavora, perché noi non siamo mica come la Rai di Renzi, che fa le nomine contro le regole della corruzione. Beh, lavorano anche il sabato anche alla Rai. Loro lavorano incessantemente per violare le norme anticorruzione. La Rai di Renzi col canone in bolletta. L'avete pagato il canone in bolletta? Voi direte, che, come che Giannino ti sei svegliato male? Ma no, ma mi girano le scatole, capito? Quando vedo che tutti annunciano, ecco la nuova Rai, adesso vi facciamo vedere noi. Poi cambiamo la norme. Se la piglia è il governo che nomina tutti i vertici, e i vertici si coprono di soldi, se ne fottono dei tetti, perché lui guadagna 650.000 euro, signor Campo Dall'Orto, e fa tutte le nomine violando le regole. Questa sarebbe la nuova Rai. E questo legittima canone in bolletta, caro ascoltatore, ma dai su. E che siamo dei poveri sudditi, ci siamo rassegnati, allarghiamo le braccia, possono farci tutto. Tanto poi lui va lì e dice che ha cambiato l'Italia. Cosa vuoi fare? Ma questo rapporto di Cantone sulla Rai ti ha colpito, eh? Ma no, mi ha colpito perché sai. Cantone, io penso che sia un po' una foglia di fico della politica, gli hanno affidato tanti di quei poteri che manco Mandracchia ce la farebbe con le sue risorse. Ogni giorno, però devo ammettere che ogni giorno almeno c'è un'autorità che segnala un fracco di cose che non funzionano, perché oggi c'è sulla Rai, poi c'è la parte che dice a Roma, quando sono arrivato io ho trovato le carte dell'autorità precedente, in cui già dal 2010 era evidente che c'era il marcio e tutti lo sapevano a Roma, ma evidentemente andava bene a tutto. Quindi Cantone finirà un giorno, come ogni mattina noi iniziamo la trasmissione con tutti i santi del giorno, un giorno avremo finirà Santo con Cantone, San Raffaele Santo. Cantone. Oggi auguri a San Cipriano, San Cornelio, a Bondio, a Marciano. Poi c'è questa bellissima Santa Dolcissima, naturalmente secondo il martirologio Santa Dolcissima non poteva che essere vergine martire per essere santa, i costumi sono un po' cambiati per così dire, e poi ci sono queste Eubetta, Vorbetta e Vilbetta, che erano perché vedi come il martirologio si intreccia poi con la leggenda, erano tre principesse tedesche in fuga di fronte agli Unni, e che poi diventano, erano belle, erano ricche, erano principesse, naturalmente erano vergini, e quindi diventano sante. Pensa che nel 1904, oggi, primo sciopero generale della storia d'Italia. Ed era uno sciopero che dura fino al 21 di settembre, quindi dura giorno e giorni, perché in Sicilia polizia e carabinieri avevano ucciso dei minatori che scioperavano per avere diritto alla pausa mensa, e così comincia la storia di scioperi generali nel nostro paese. Tra l'altro tu, Oscar, hai citato Cantone, e appunto, come ho letto in rassegna stampa, Cantone ieri ha fatto una deposizione al processo Mafia Capitale e ha detto quello che abbiamo denunciato anche varie volte qui e con vari testimoni, con vari ospiti, e cioè credo che il marcio di Roma stia soprattutto nella burocrazia, cioè lui ha scoperto che già gli appalti alle cooperative all'epoca del cosiddetto processo Mafia Capitale erano irregolari e c'era un'autorità di vigilanza che sapeva e non faceva nulla. Non faceva nulla. E che lo segnalava a chi amministrava Roma, che non faceva nulla. E tutto così, cioè, che significa? La politica dipende sempre di più dai vertici della pubblica amministrazione. Che non cambiano. Che diventano titolari di un potere trasversale di organizzare mercati paralleli opachi gestiti dalle loro politiche discrezionali. Questo spiega anche perché, capite, a livello nazionale si fa la riforma Madia. La riforma Madia dice ruolo unico dei dirigenti della PA, si inizia con la rotazione, per cui ogni 4 anni devono avere la conferma, se non hanno la conferma vanno in mobilità e possono anche essere espulsi. Però salviamo da queste norme, tanto per cominciare, i 150 direttori generali apicali. E che da cosa nasce questa eccezione? Dal fatto che sono i 150 che a livello nazionale sono come quelli che a Roma gestiscono le 100 stazioni, 100 stazioni tra, di acquisti e appalti, sono il perimetro della capitale centrale, voglio dire, del Campidoglio, degli assessorati, dei municipi e delle partecipate. 100. Pensate, ci sono 100 signori che non devono essere neanche dirigenti, perché si chiamano responsabili di processo, che negli anni si sono organizzati ciascuno le regole del proprio mercato. E insomma, parleremo di questo, perché avremo l'ex assessore Sabella, avremo anche Emiliano Fittipaldi dell'Espresso. Sull'Espresso ha firmato un articolo che riguarda una delle persone più chiacchierate, parliamoci chiaro, all'interno anche di questo inizio di giunta Raggi un po' turbolento, cioè Raffaele Marra, che quando era direttore del patrimonio della casa del Campidoglio, della casa, all'epoca Alemanno, comprò un attico di lusso da un noto costruttore romano, Sergio Scarpellini, che è quello che affitta alla Palazzi alle istituzioni, ottenendo un grande sconto secondo in base ai prezzi di mercato. Questo è quello. I prezzi di mercato che erano praticati dalla stessa società di Scarpellini, e in cambio ottenendo una sopravvalutazione del suo precedente appartamento lì vicino, ma si tratta di multipli 3, 4, 5 volte. Certo. In tutta una situazione in cui a Roma, hai visto, è anche complicata dal punto di vista politico. Ieri Virginia Raggi racconta il giornale, è stata data in lacrime, ha chiamato Beppe Grillo, che ha detto stiamo con Virginia, stiamo con la Raggi. E quindi Se lacrime saranno vere o ce ne inventiamo noi? Le lacrime vere? No, non lo so, questo raccontano. Raccontano. Io ho l'impressione che i giornali sono un po' in assisti. Dopo 10 giorni tamboreggianti, le prime 5 pagine ogni giorno, adesso vedo che... A trovare i particolari, le lacrime. Si sente un po' di fiatone, per così dire, no? Si sente un po' di fiatone e finisce questo ancora in prima pagina. Che poi, voglio dire, per esempio Confindustria ieri abbia messo in ginocchio l'ottimismo del governo sull'economia, abbattendo le aspettative di crescita di quest'anno e l'anno prossimo. Finalmente anche Confindustria diventa un pochino più realistica, diciamolo, un po' di autocritica anche su questa casa del nostro editore, e perché ha abbassato la stima di crescita per il 2016 allo 0,7, per il 2017 addirittura allo 0,5. Il ministro Padoan ha fatto un salto sulla sedia. Alcuni quotidiani, brava La Stampa, oggi segnalano che il negoziato europeo per avere più deficit è su un binario morto. Ecco perché, cari ascoltatori, improvvisamente sui giornali vedrete adesso rinascere, pochi giorni prima della legge finanziaria, ipotesi di tagli ai diversi ministeri, perché hanno raccontato per mesi ai giornali che avrebbero avuto l'ok europeo a fare un deficit del 2,4%, e invece adesso devono ramazzare all'ultimo momento dei tagli di spesa. Capita in questa singolare Italia, capita. Allora diamo il numero di telefono, perché non abbiamo dato, 800 24 00 24 se volete intervenire. I temi sono diversi. C'è anche ieri Renzi era alla festa dell'Unità a Bologna con il presidente dell'ANPI Smuraglia. C'è stato questo dibattito molto seguito, c'erano 3.000 persone. Giustamente qualcuno dice, chi dice che il tema del referendum non appassiona? Certo, era la festa dell'Unità a Bologna, però 3.000 persone escluso. Smuraglia, che ha onore all'età, per l'età che ha, lui si è impuntato, l'ha rimessa al centro, ha ottenuto tutto il fuoco, ha costretto il PD a portarlo sull'arena della più grande e importante residua festa dell'Unità. Vogliamo sentire uno stralcio, Renzi? Volevo rassicurarla sul fatto che io vado a casa volentieri, non stasera che devo andare a Bratislava. Quanto all'andare a casa rispetto al governo, siccome io ho letto la Costituzione che lei vuole difendere, le segnalo che c'è una procedura molto semplice: finché c'è la fiducia del Parlamento io rimango a cercare di servire al meglio il mio paese, con buona pace di lei e di quelli che interrompono. Le sia detto con grande affetto benvenuta alla festa dell'Unità. Si rivolgeva in questo caso non a Smuraglia chiaramente, ma a una persona che è intervenuta, che era nel pubblico e che ha interrotto. Ha osato interrompere. Vabbè, ma si sa che alla festa dell'Unità c'è un po' di, così, come dire, di partecipazione attiva anche del pubblico, no? Sì, c'è un piccolo problema, è un partito abituato a una partecipazione. Non che non sopravvalutiamo, cari ascoltatori, tutti i partiti in realtà poi decide chi deve decidere, però siamo al punto che addirittura se fa notizia che qualcuno fischietti al Festival dell'Unità vuol dire che è cambiata la natura di quel partito. Hai visto che c'è questo Schwarz adesso, che D'Alema si è inventato? Sì. D'Alema ha chiamato il presidente del comitato per il no. Schwarz. Chissà cos'è, perché lo dice con il tono è perentorio. No, che ti ricordi che insomma, era il nome del generale dell'operazione americana contro l'Iran. Schwarzkopf, però dava l'idea, insomma, a questo Schwarz, secondo me D'Alema lo ha scelto unicamente perché per da questo nome. Esatto. Tanto dirà D'Alema, il presidente sono io, sono si io sa, che il presidente. Basta io. Volevo dire, lo sappiamo che lo pensa e questo avanza, per così dire. Anzi aggiunge diciamo. Ma tu l'hai fatto caso in televisione due sere fa quando che cosa? C'era questa velocità. D'Alema è l'anti-talk. Tutti i talk non funzionano, dovrebbero tutti invitare D'Alema. Perché, perché diciamo, è come mettere un freno automatico nel al ritmo. E c'è anche perché con D'Alema, no, mentre lo facesse chiunque altro dagli ospiti giornalisti, lo casserebbero automaticamente, iniziano a sbutragliare come fomentare. Con D'Alema si devono fermare tutti, perché se osano intervenire li sottopone, li fulmina, e quindi il talk a quel punto vede sparire tutta la concitazione dei suoi tempi. È fantastico, è come la moviola in campo per il calcio, una rivoluzione di quel tipo. Dai, sei impietoso oggi, Oscar, sei impietoso. No, Oscar, la moviola in campo è la rivoluzione, quindi è il futuro, il progresso. La rivoluzione, il futuro, il progresso, questo mi viene in mente una cosa. Adesso, Oscar, ti devo fare sorridere, perché sai che ci sono gli amici di Radio Rock che chiamano le persone, li fanno cantare, i politici, no? Allora, Poletti, che assomiglia a Guccini anche quando parla, non gli potevano che far cantare la locomotiva di Guccini. Vabbè, senti 10 secondi. Oi. Sì, vabbè, no, te lo anticipo. Anni del secolo, macchinista ferroviere. Vabbè. Aspetti, connetta, giallo. Tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Vabbè, diciamo il livello è questo. Ma è il finale, la cosa più importante, perché quello di Radio Rock gli fa una domanda sul referendum. Senti come risponde, visto che parli di progresso. Senti, Ministro, non so come agganciare la locomotiva a una ragione per votare sì al referendum. Senti, sì. Per il progresso, la locomotiva, il sì e il progresso. Il sì per il progresso. Vedi, no, che non so se, la pensi come Poletti. La cosa che mi colpisce è che Poletti, che dovrebbe essere esperto di questo genere musicale, innanzitutto, perché il genere musicale in cui sono cresciuti quelli della sua generazione, no? Allora, se alla domanda del referendum associa automaticamente la locomotiva, che è il gesto anarco-rivoluzionario suicidario di uno che si sbatte a tutta velocità contro con i la locomotiva contro e si uccide, allora magari il ministro forse ha bisogno la locomotiva, il progresso, è fantastico, sembra direttamente uscito da un film di Camillo Peppone. Ci chiama Leo e abbiamo sistemato anche Poletti, ma dopo D'Alema. Ma non mi puoi dire di no, Poletti è un personaggio geniale, pena di uno dei più grandi protettori dell'Italia del dopoguerra, e devo dire benissimo trasposti. È così, è Peppone, è lui, che, cioè il comunista tutto, che poi sotto poi si organizza l'italiana, amici degli amici, le cop come la mafia, è questo, Leonardo Poletti da Latina, Leonardo, buongiorno. Ciao Leonardo. Buongiorno. No, io volevo riflettere un attimino una cosa anche con voi, soprattutto con Oscar. Senza entrare nel merito di ciò che sta accadendo dal punto di vista politico, amministrativo, anche perché è accaduto ben poco dal punto di vista amministrativo sulla capitale, ma sul metodo. Sì. Cioè, si è, diciamo così, predicato la massima partecipazione da parte dei cittadini e del popolo a qualsiasi tipo di decisione. Si è predicato addirittura la diretta, no, streaming, durante le discussioni. Nel momento in cui si viene chiamati ad amministrare la città, la base non si chiama mai, riunione a porte chiuse, direttori locali, provinciali, regionali, nazionali, niente avviene alla luce del sole. Ecco, questo è un malcostume italiano, nel senso che nel momento in cui si raggiunge ciò che si è predicato si dimentica e si entra in un sistema di gestione, diciamo così, verticistico, no? Soltanto verticistico, dove il cittadino scompare, non partecipa più, non esiste neanche più la formula, il sistema per farlo partecipare. Dice, una formula partecipativa dei partiti, dice Leonardo, si è perduta negli anni. E poi secondo me si sta riferendo anche soprattutto a chi su questo, cioè su una nuova formula, lo streaming, su Meetup, eccetera, ha costruito la sua radicale differenza rispetto ai vecchi partiti in crisi, cioè secondo me si riferiva anche ai 5 Stelle. Diciamo ai partiti in generale, poi il 5 Stelle dice non siamo un partito come gli altri, comunque di fatto la critica di Leonardo c'è da Latina. Grazie, andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità a Roma, e Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Siamo arrabbiati, alcuni nostri ascoltatori, perché ho osato accostare le cooperative ai processi per mafia capitale. Peccato sì. Che forse si dovrebbero aggiornare, perché gli mando tonnellate di verbali giudiziari dei procedimenti in corso. Quindi è inutile che insorgete in questo modo. Prendiamo atto del fatto che, oppure leggete Coop Connection di Antonio Amoroso, io lo continuo a dire a tutti i nostri ascoltatori, ex assessore a Bologna per il PD, tra l'altro l'autore, perché è un libro su cui bisognerebbe molto riflettere, su quello che avviene ai margini e non solo di parti fondamentali della sezione delle coppie del nostro paese. No, tra l'altro ieri Oscar, Raffaele Cantone, capo dell'anticorruzione, nella deposizione al processo Mafia Capitale ha parlato di quello che, tra l'altro, un ex assessore, oggi tornato a fare il magistrato a Roma, ci aveva denunciato più volte pubblicamente qui a questi microfoni, e cioè il fatto che il problema vero di Roma, ma credo non solo di Roma, anche dell'Italia, è una certa burocrazia o certi funzionari che si tramandano in qualche modo intoccabili il potere e controllano dai vertici apicali poi come funzionano le pubbliche amministrazioni. È l'ex assessore alla legalità di Roma, Alfonso Sabella, che è tornato con noi. Buongiorno Sabella, ben ritrovato. Buongiorno. Questo ha detto Raffaele Cantone. Tra l'altro, proprio nel giorno in cui esce anche un articolo sull'Espresso, un articolo molto dettagliato di Emiliano Fittipaldi. Buongiorno Emiliano, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Emiliano Fittipaldi, che racconta una storia che tra poco vedremo nei dettagli, che riguarda uno degli uomini che in questi giorni era abbastanza chiacchierato. Raffaele Marra è stato al centro anche di tutto il dibattito politico di Roma. Intanto Sabella, la stupisce la posizione di Cantone, che ha detto il marcio di questa città, credo che soprattutto il marcio di questa città sia la burocrazia. Sottoscrivo parola per parola quello che ha detto Raffaele Cantone al processo, almeno per quello che ho detto dalle agenzie, perché chiaramente abbiamo lo stesso tipo d'approccio al problema, e con lo stesso tipo d'approccio siamo arrivati alla stessa identica conclusione. Il problema di Roma, per quello che ho visto io, è una macchina amministrativa, nella migliore delle ipotesi mediocre, inadeguata a rispondere ai problemi di Roma Capitale, e purtroppo molto spesso pervasa anche da fenomeni corruttivi o di poca trasparenza. Quello che però più che altro mi interessa, insomma, sottolineare è la incapacità di questa macchina amministrativa a far fronte ai problemi di Roma. È un'incapacità che in qualche modo però di cui la politica era perfettamente a conoscenza e che ha continuato a mantenere così com'era. Io adesso sono molto arrabbiato personalmente, perché vedete, io l'ultima cosa che ho fatto in Campidoglio, proprio un attimo prima di andare via, è stata quella di essere riuscito finalmente a dar vita alla centrale unica di committenza, cioè creare una struttura amministrativa insieme al Campidoglio che potesse gestire le gare, gestire le appalti, gestire le commesse, gestire la programmazione, quindi fare in modo che la città non si trovasse in ginocchio come purtroppo spesso accade. Ebbene, nonostante sia passato un anno, nonostante la giunta l'avesse già approvata, nonostante fosse stata quasi calendarizzata in assemblea comunale, ancora oggi questa centrale unica di committenza non prende vita. Il Campidoglio vuole partecipare, scusatemi la metafora, alle gare di Formula 1 con 50 Fiat d'una e non con una monoposto, la monoposto la tiene in garage. E allora, cioè, vedete, quando il problema è che di fronte ti controlli quella centrale, hai controllato l'80-85% degli appalti a Roma, conseguentemente mafia e corruzione avranno un pochino più di difficoltà, non dico che non ce la faranno, ma avranno sicuramente più difficoltà. Prima Oscar ci diceva che sono 100 le stazioni appaltate, sommi tutti. 100 centri di spesa e oltre 44 stazioni appaltate. Però di fronte all'incapacità, all'agire in maniera mediocre o inadeguata, uno dice vabbè, non è neanche facile. Il problema è per la poca trasparenza e corruzione, ci sono i magistrati, dovrebbe esserci le indagini. Però il mix combinato, caro Sabella, fa che da una parte c'è... Ma i magistrati, considerino una cosa, i magistrati arrivano dopo, esatto, quando il guaio è stato chiuso. Vede, poi anche, c'è anche una questione di immagine. Adesso voi avete in studio Fittipaldi che ha fatto questa inchiesta. Ora, giusto per rimanere all'attualità, io trovo, al di là del fatto che probabilmente non ci sarà nulla di strano, nulla di illecito, nulla di irregolare nella vicenda, ma trovo assolutamente strano che il dirigente del dipartimento che si occupa di patrimonio acquisti un appartamento dal suo diretto, diciamo, da quello che è il maggior contraente con il Campidoglio. Ecco, questa dovrebbe essere questa questione di trasparenza. È necessario che la pubblica amministrazione svolga le proprie funzioni, come è scritto nella Costituzione, non solo con disciplina, con rispetto delle regole, ma anche con onore, cioè rispettando il prestigio delle istituzioni. Sì. Una cosa di questo tipo, purtroppo, anche a distanza d'anni, poi getta in qualche modo discredito sul Campidoglio, ed è una cosa che a Roma non è possibile, perché Roma è anche la capitale, non è possibile da nessuna parte, ma a Roma ha maggior ragione, perché Roma tutto viene enfatizzato oltre misura. Certo. E Roma è una città purtroppo in ginocchio. Sì, quello che ha scritto Emiliano Fittipaldi, Emiliano, se ce lo spieghi in sintesi, è che Raffaele Marra, che allora era direttore del patrimonio appunto e della casa in Campidoglio, acquistò un attico di lusso dal gruppo di Sergio Scarpellini, che fa molti affari sempre con Roma, a un prezzo ben al di sotto del prezzo di mercato. Cosa c'è e cosa ci sarebbe di irregolare in tutto ciò? Innanzitutto Raffaele Marra, ricordiamolo, è non soltanto ex vice capo di gabinetto della Raggi, ma diciamo il suo consigliere più importante, cioè l'uomo più importante della prima sindaca 5 Stelle della città più importante d'Italia, quindi un uomo cruciale. È un uomo che è stato molto chiacchierato da parte del movimento perché ha avuto un passato molto vicino, l'ha funzionario ovviamente a Gianni Alemanno, allo stesso Franco Panzioni, ricordiamo ex dirigente dell'Ama Finita in Mafia Capitale, perché Marra è entrato nella pubblica amministrazione, era un finanziere attraverso l'Unire, no? la famosa diciamo, società che si occupa per il Ministero dell'Agricoltura di Ippica. E pare che proprio diciamo, durante diciamo, i mesi in cui era all'Unire ha conosciuto Scarpellini, o il figlio di Scarpellini. Scarpellini è l'immobiliarista della casta, così viene chiamato da Beppe Grillo, da Di Battista, perché è il signore che affittava a prezzi folli, fuori di mercato, i palazzi per la Camera dei Deputati e per il Senato, pare in 10 milioni 500 milioni di euro di affitto, si sarebbero potuti comprare probabilmente due volte, e affitta immobili anche al Comune di Roma. Ora, che fa Sergio, che fa Marra? Nel 2010 compra proprio da Scarpellini, quando è Marra funzionario dell'ufficio, guarda caso, della casa e del patrimonio, compra un attico avendone uno sconto di 500.000 rispetto ai prezzi di mercato. Io ho fatto la misura camerale dell'appartamento gemello, esattamente identico a quello di Marra, comprato da un normale cittadino 1,2. Marra spende 700.000 euro. Di questi 700.000 euro, tra l'altro 400 gli dà direttamente Scarpellini, che riacquista lui personalmente un'altra casa che Marra aveva comprato qualche anno prima a 130.000 euro. Insomma, un affare immobiliare pazzesco. C'è un enorme conflitto di interessi, come diceva Sabella prima, perché io non so se c'è qualcosa di lecito o di illecito, non mi permetterei mai di dirlo, non sono un magistrato. C'è però un conflitto di interessi perché tu fai affari immobiliari ottenendone dei grandi benefici con uno dei soggetti che appalta, che lavora, che fa business importanti con il Campidoglio, ente per cui tu lavori. Questo accade, ahimè, molto spesso, non è Marra l'unico che fa operazioni di questo tipo. No, è chiaro che cioè, il conflitto di interesse o presunto tale, perché poi bisogna vedere caso per caso, poi è una delle questioni che in Italia è tra le più risolte, ma a tutti i livelli, caro Oscar, forse. Però io credo che negli anni della Seconda Repubblica è avvenuto un fenomeno, ai miei occhi, sempre più rilevante. Questo fenomeno è, per così dire, l'autodichia crescente dei vertici elevati delle pubbliche, delle macchine amministrative, la parte apicale delle macchine amministrative, nelle grandi città, nelle regioni, nei ministeri a livello centrale, cioè un corpo esteso, perché se sommiamo, voglio dire, i 150 dirigenti generali che faranno eccezione alla riforma Madia, per esempio, perché fanno eccezione? perché identificano questo tipo di vertici apicali di fronte ai quali la politica, non titolare delle competenze per scrivere o capire le norme, senza di loro si perde. Ecco, la Prima Repubblica era diverso, se permetti, sono vecchio abbastanza, sono stato pure portavoce di un partito, la Prima Repubblica, per maggioranza di governo. I partiti avevano affondato le loro rapinose mandibole nella macchina pubblica, e però c'era una catena di comando politica, pubblica amministrazione, da cui i partiti estraevano risorse in maniera illecita. Qui oramai è un mercato fatto dall'autonomia di vertici amministrativi senza di cui la politica non sa stare. I 5 Stelle, qualunque sia la ragione, per me è abbastanza incomprensibile, per cui Marra risultava fino a pochi giorni fa insostituibile per il nuovo sindaco, immagino che sia per questa stessa ragione. Posso fare una domanda a Sabella? Sabella, nella sua opinione di magistrato, non di politico pro tempore, è vero questo fenomeno, comparando gli atti delle indagini su Prima e Seconda Repubblica, cioè questa autonomizzazione del vertice della PA rispetto al politico, è un po' così o no? Era inevitabile in qualche modo, o meglio, la politica avrebbe potuto evitarlo, ma non l'ha fatto dopo l'approvazione della Bassanini. Quando si è creata una separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, si è arrivata a questo obiettivo, a questo risultato. Una politica che si è deresponsabilizzata, tra l'altro una politica incapace di comprendere certe volte alcuni meccanismi amministrativi, che non può fare a meno della burocrazia, che si lega alla burocrazia solo ed esclusivamente sulla base del fatto che può nominare i vertici, si è accontentato di questo, lo spoil system, mettere l'uomo suo indipendentemente e indifferentemente dalle sue reali capacità e competenze. E il risultato che si è creato è questo, ma questo prima di noi l'ha capito il mondo della corruzione, perché i corruttori, ora come ora, pagano molto di più un funzionario che un politico. Certo. Mafia Capitale l'ha dimostrato, per corrompere un consigliere capitolino pagava Puzzi e compagni, avrebbero pagato 1000 euro al mese, per corrompere un semplice funzionario all'ambiente gli hanno trovato in una volta sola 572.000 euro. Basta fare il conto, il politico si doveva far corrompere 47 anni di fila per prendere quello che in una volta sola aveva preso un funzionario. Cioè, ormai siamo a questi meccanismi qua, per cui io ho avuto un grande vantaggio, perché quando io sono arrivato in Campidoglio, sono arrivato da non da politico, ma con la mia mentalità e la mia, tra virgolette, con qualche modo competenza da magistrato e anche da amministratore che aveva avuto al Ministero della Giustizia, e senza avere un bacino elettorale, gente a cui rispondere, ho fatto quello che potevo fare e senza nemmeno guardare in faccia a nessuno, perché non avevo un bacino elettorale a cui dare risposta. Ecco, questo ha avuto questo grande vantaggio di aver potuto fare qualcosa che alla politica normalmente non può fare, perché poi si trova stretta tra vincoli elettorali, vincoli di mandato, promesse che sono fatte, e praticamente poi alla fine non si fa niente realmente nell'interesse pubblico, ma si valuta il proprio osticello. In qualche modo era inevitabile che questo avvenisse, perché vede, ora alla Corte dei Conti, mi scusi la brutalità dell'esempio, non ci va più il politico, ci va il funzionario, ci va il dirigente, quindi al politico non gli interessa nulla. Conseguentemente il politico, che è quello che deve dare invece la visione, che deve dare l'indirizzo della città, che deve decidere se questi soldi vanno spesi in un senso, vanno spesi in un altro, non è più in grado di farlo. Quando Ignazio Marino arriva a Roma, la prima cosa che fa, per esempio, una delle prime cose che fa è quella di agire sul sistema illecito in qualche modo dei CAT, dei centri di accoglienza temporanea, dove il Comune di Roma paga 4.000 euro un bilocale a Tor Tre Teste o un bilocale a Valcannuta a 4.000 euro al mese, tanto quanto affitto un'attica ai Parioli per dare la casa alle persone bisognose. Risultato, il Comune adotta questa delibera a settembre del 2013, la gara parte soltanto ad agosto del 2015 e viene pure fatta male e finisce male. Quindi la politica non ha nemmeno lo strumento certe volte, non avendo la competenza necessaria per agire, per fare in modo che la sua visione, le sue ottime o pessime idee vengano tradotte in pratica. Bisogna capire, sì, laddove c'è però, appunto. Però Sabella, un mondo in cui lei stesso descrive i politici come soggetti a circonvenzione di incapace, capisci che per chi ascolta e per il cittadino diventa una prospettiva disastrosa. No, non è così, chiaramente non possiamo generalizzare, attenzione, però devo dire è una grande difficoltà che ha la politica. C'è no, un politico più illuminato che capisce. Altri politici purtroppo hanno anche perso, in molti hanno anche perso le capacità di studiare, le capacità di comprendere. Arriva il funzionario e dice: no, assessore, questa cosa non si può fare, basta. Oppure oppure questa cosa va fatta così, ma siamo proprio certi. Certe volte ho testato che non era realmente così. Cioè, diciamo che l'esempio di essere grati a Emiliano Fittipaldi per come fa il suo mestiere è quello che un politico, di fronte a qualunque vertice della pubblica amministrazione, prima di decidere se confermarlo o meno, dovrebbe dire: mi dai la lista di tutte le proprietà e io incaricherò terzi di vedere quando le hai comprate e da chi. Bisogna fare così. Sì. Intanto vediamo, perché poi a fianco alla poca trasparenza della corruzione c'è appunto anche, laddove non c'è la corruzione, la poca trasparenza, interviene il magistrato, anche se dopo in alcuni casi c'è, ci ha detto Sabella, anche incapacità e inadeguatezza, per cui il mix è devastante. Benvenuti in Italia. Allora, dopo il giornale radio parleremo invece di un tema più popolare: i compiti a casa. Mamma mia, c'è un altro papà che ha detto che non ha fatto fare i compiti quest'estate al figlio. È fiero perché gli ha insegnato la vita. Gli ha insegnato la vita, gli ha fatto andare in gita, gli ha fatto andare. Ma fare tutte e due le cose, cioè gita e compiti, non si può fare. Non si sa. Ma vedrai che saremo impopolari difendere questa tesi, perché inneggeranno tutti al fatto che bisogna non fare degli affari. Allora, in diretta fino alle 9.30, come avete capito, per un po' ancora, caro Oscar, per un po' ancora. Per un po', la vita, settimana prossima. Ricorda che deve morire, aspetta che me lo segno, come diceva. Sei questo per un po' ancora? Per un po' ancora, fino alla settimana prossima, poi dopo rientriamo alle 9. Quello cosa avevi capito? Non lo so, le mani andavano sotto il grande tavolo, per un po' ancora. Ma anche sul tavolo è di ferro per lungo tempo. È vero, c'è il supporto del microfono che mi fai pensare. Allora, parliamo di compiti, parliamo di delizia o croce, soprattutto per i genitori, o forse anche per gli studenti. I compiti a casa, cioè tu oramai hai un sussunto sulle tue vesti di genitore, il fatto che i compiti sono un vero incubo per i genitori, non per i figli. Per i genitori. Ma dai, ma vedrai tra qualche anno, cioè, perché quando ti obbligano a essere lì attento, paziente. Ma scusa, un piacere stangare mio figlio? Un piacere, no, un piacere stangare tuo figlio quando tuo figlio vorrà fare i compiti. Già, se non vorrà fare i compiti, se non vuole farlo, ristango. Sarà una battaglia. Poi sulle altre materie ho già capito come va, cioè non posso stangarlo su niente, ma almeno su questo. Vabbè, ne parliamo tra poco, però ci sono anche degli ascoltatori, anche sui temi che abbiamo affrontato. Andrea da Treviso ci chiama. Andrea, buongiorno. Buongiorno Milan e buongiorno Giannino, sì. È un piacere ascoltarvi. Bene. E purtroppo sono sempre più d'accordo con voi. Questo dico purtroppo, perché questo significa che le cose non vanno molto bene. Quindi volevo dire, per ciò che è stato detto sul sempre maggior potere che ha la burocrazia, sì. Io posso dire che l'ho anche provato personalmente, perché sono stato amministratore locale per un quinquennio, e subito dopo la riforma che è stata citata, a cavallo diciamo tra gli anni 90 e il 2000, ed effettivamente questa riforma, che è stata un po' populista, lo spiego in che senso, perché ha voluto far vedere che veniva tolta in qualche modo il potere e la responsabilità ai politici, tra virgolette, però l'ha demandata ai tecnici. E tra i tecnici a questo punto non devono rispondere praticamente a nessuno. E quindi si è fatto questo, però da un certo punto di vista si è fatto in modo di dare il potere a qualcuno, tra virgolette, e tenendo conto che al giorno d'oggi la Corte dei Conti deve controllare le cose molto meno di una volta, è più facile che le cose, diciamo, siano fatte di nascosto. No, va bene, conferma un po' la tesi di Sabella che ci ha spiegato prima. Andrea, la ringraziamo. Andrea da Treviso, è caduta la linea dell'altro ascoltatore. Andrea da Treviso, la ringraziamo intanto per questo intervento. Allora, Oscar, compiti sì, compiti no. Sai che qua ci stanno già subissando di messaggi. Immagino, sì. Perché sì, tutto sì. Nasce da un genitore, non sarà neanche l'unico, ma lui è finito sul Corriere della Sera, ha portato, è ricomparso il figlio a scuola, terza media, con una giustificazione del papà dicendo: sappiate che mio figlio Mattia Anche mio figlio si chiama Mattia, ma non è mio figlio. Ci tenevo a dirlo perché io glieli faccio fare i compiti. Vabbè, mio tu gli fai fare il compito. Primo ama il Milan, Dio tuo come te stesso. No. Secondo la formazione del 59. Terzo, questi sono i compiti che gli fai fare. No. Il genitore ha dato la giustificazione. Vorrei informarvi, cari professori, che come ogni anno mio figlio non ha fatto i compiti estivi. Perché sono deleteri. Questo genitore. Ma lo difendo sui giornali perché secondo me l'ha intenzionalmente scritta come un manifesto, cioè è un contromanifesto di fondazione addirittura del modello dell'intera scuola italiana, perché se capisco bene, e non voglio mancare di rispetto, ma la sua scrittura, il genitore rivendica un modello completamente diverso. Un modello diverso di scuola, affidandosi anche a sistemi di paesi, sistemi come la Finlandia, per esempio, dove non si fanno compiti a casa e... Tutti i dati internazionali dicono che gli studenti finlandesi per il loro modello scolastico sono tra i migliori al mondo, se non i migliori al mondo. E anche in Italia ci sono, guarda, noi salutiamo e lo ringraziamo, non è la prima volta che lo chiamiamo, Maurizio Parodi, è un dirigente scolastico a Genova, ha scritto un libro, Basta Compiti, anche quello è un po' un manifesto, no? Parodi, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto. Ben più di un manifesto, è un libro, quindi come dire, con approfondimenti che consentono di apprezzare quanto sia come dire, controproducente il ricorso a questa pratica e cosa d'altro si potrebbe fare. Comunque quindi, il manifesto esiste, nel senso che lo abbiamo lanciato su change.org, una petizione online. Ha superato le 16.000 adesioni per abolire i compiti a casa. Qua Oscar è un dirigente scolastico a Genova. Basta compiti, non è così che si impara. Con noi c'è anche invece un professore di economia a Pavia, scrive anche sulla voce.info, sul corriere.it, è il professor Riccardo Puglisi. Buongiorno Puglisi, che quando ieri abbiamo annunciato l'argomento ha detto: eccoli qua, quelli che non fanno i compiti, poi me li ritrovo all'università. Esattamente. Ecco. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Ed era un tono, come dire, me li ritrovo non preparatissimi, mi sembra di capire, no Puglisi? No, dipende, alcuni sono molto preparati e altri si preparano facendo i compiti, cioè nel senso allenandosi durante l'anno. Sinceramente quando ho letto questa lettera mi sono messo le mani nei capelli che non ho. Che non ha, idealmente. Ma perché? Perché? Cosa no? Perché adesso Parodi le dirà che invece c'è un sistema alternativo a quello di fare i compiti a casa. A parte questa logica della lettera contro il sistema, come se il sistema fosse tutto orripilante, ci fossero delle specie di costrizioni in cui vengono avviluppati i ragazzi, i bambini, eccetera, eccetera, c'è l'idea che i compiti, soprattutto i compiti fatti d'estate, sono un modo di sviluppare la disciplina. Sviluppare l'impegno nel senso inglese del commitment, cioè io ho un modo attraverso cui metto delle energie a fare una cosa senza bisogno di avere una gratificazione immediata, per cui faccio questa cosa, ho subito la soddisfazione. No, bisogna allenarsi, bisogna metterci impegno e i risultati si vedono dopo. Quindi uno dei problemi è invece che se non c'è disciplina, non c'è impegno, eccetera, eccetera, uno vuole i risultati subito e poi i risultati non arrivano mai. Cioè il compito anche come impegno da mantenere, rispettare per poi moralmente. Insomma, interessante. Naturalmente, cioè, faccio notare a chi non la pensa come il professor Puglisi, io la penso come lui, che esattamente l'idea è commitment un po' calvinista, che a me piace. Io credo che bisogna dedicarci a questo spirito, bisogna anche trasferirlo ai nostri figli. Questa è la mia personalissima opinione. Sia esattamente una delle cose invece che non piace a chi indica altri sistemi di tipo partecipativo, eccetera, eccetera. Cioè, lo studio non deve essere la dimostrazione di questo, per così dire. Però i punti di vista sono diversi. Infatti Parodi ci spieghi perché il no ai compiti in sintesi e quale metodo alternativo propone. Ma intanto gli studenti di cui parla il professore, l'esimio professore, sono quelli che hanno svolto compiti per buona parte della loro vita e non solo scolastica. Noi abbiamo studenti che fanno il doppio, il triplo, il quadro dei compiti dei coetanei europei e abbiamo tassi di analfabetismo funzionale, è vero, che sono scandalosi. Quindi il compito non è funzionale all'acquisizione di competenze apprezzabili e significative, anche perché solitamente attiva solo la memoria a breve termine, è un sapere usa e getta. Vedo anche mio figlio, dopo 3-4 mesi di questo studio, più o meno insensato dal punto di vista pedagogico, non rimane nulla, non si acquisiscono competenze. Sarà un caso che le scuole migliori del mondo, compresa la Finlandia, non assegnino compiti a casa o ne diano pochissimi. Come mai i nostri studenti che sono soverchiati dai, dai compiti a casa, vi faccio solo un esempio, si danno compiti persino nelle scuole a tempo pieno, dopo 8 ore di lavoro, bambini da 16, lavoro più o meno alienante, insomma 8 ore di mobilità forzata, bambini dai 6 ai 11 anni sono costretti a fare compiti a casa, compiti per il weekend e compiti per le vacanze. Però lei ha detto un punto importante, perché in Finlandia no, io, però, io devo fare una domanda. Lei deve dimostrare, l'analfabetismo funzionale c'è, lei deve dimostrare che però, scusi, per avere un valore quello che dice, che dipende dai compiti, che non dipende dai professori. No, io sto dicendo che l'analfabetismo funzionale si registra a fronte di un impegno extrascolastico domestico che non ha eguali al mondo, quindi evidentemente questo sistema non è funzionale. Ma io potrei obiettarle, se questo è l'argomento, che magari l'analfabetismo funzionale è presente perché malgrado quello che chiediamo di fare ai giovani, cioè i compiti, è perché gli insegnanti non sono all'altezza. E vale, scusi, perché o mi spiega con qualche letteratura, qualche esempio, che i cattivi risultati da cui partiamo, perché li condividiamo tutti, stanno le graduatorie PISA eccetera eccetera del sistema italiano, dipendono da questa cosa dei compiti, e io non chiedo niente di meglio che capire qual è il nesso, perché altrimenti diventa una correlazione che però non ha alcun nesso causale, insomma. È una relazione significativa e che può essere confortata dall'esperienza di qualsiasi genitore. Comunque gli stessi rapporti OCSE hanno chiaramente evidenziato come un impegno, come dire, superiore alle 4 ore settimanali, se non ricordo male, i nostri studenti fanno più di 4 ore al giorno di compiti a casa, è addirittura controproducente e deleterio. Queste sono le risultanze dei rapporti OCSE. D'altra parte è abbastanza evidente, è di palmare evidenza, che il compito a casa aggrava lo svantaggio di chi sia svantaggiato, di chi non abbia un supporto domestico adeguato, di chi non abbia genitori sufficientemente istruiti o presenti. Il giorno dopo i compiti gli studenti svantaggiati lo sono ancora un po' di più, gli altri maturano un'insofferenza nei confronti della scuola e dello studio che purtroppo a volte resta come traccia indelebile. Le faccio un esempio, riporto la testimonianza di un esperto assolutamente inconfutabile come Umberto Eco, il quale diceva, quando gli fu chiesto di definire un classico in letteratura, niente di più facile, è un libro che tutti odiano perché sono stati costretti a studiarlo a scuola, in quelle forme, attraverso uno studio che purtroppo non mobilita mi scusi se mi scappa da ridere, ma siccome viviamo in un sistema in cui dovremmo insegnare ai giovani che tutto è confutabile, perché il sistema sperimentale a cui facciamo riferimento è quello, a cominciare da Umberto Eco, perché dalle parole di Umberto Eco non è deducibile che non bisogna leggere quel libro, dipende da come lo si legge, ma non che quel libro è un libro sbagliato da mettere al centro della formazione, ma lo dico sorridendo, perché non vorrei che su questa cosa dei compiti, per quanto io capisco che il carico è molto elevato, bisogna vedere se è un carico commisurato ai risultati da misurare. Detto questo, mi sembra che ci sia un eccesso di colpevolizzazione con il sistema dei compiti. Io non vorrei, lo dico per esperienza limitatissima, e quindi la mia è un'esperienza molto più limitata di quella dei dirigenti scolastici e dei professori, non vorrei che però pesasse anche il fatto che nelle famiglie italiane la voglia di dire, sentite, noi non ce ne vogliamo occupare, fateci fare i fine settimana e le vacanze. Ma questo c'è anche, Oscar, no, io non so se ci anche. Sia anche no, o se non sia una cosa fondamentale, cioè l'abdicazione di responsabilità dei genitori, questo, diciamoci le cose come stanno, io sento molti amici che dicono che palle, Oscar, ma è chiaro che molti lo dicono, ma anche perché il professor Parodi ci cita la Finlandia. Io appunto ho visto quest'estate Where to Invade Next, il documentario di Michael Moore che va proprio in Finlandia a studiare, tra le altre cose, il sistema scolastico. È vero che professore non stanno a casa a studiare gli studenti in Finlandia, però non stanno neanche 8 ore come i nostri studenti seduti su una sedia, ma fanno lezioni di cucina, dilla tutta nel film Michael Moore propone di venire in Italia per prendere le lunghe vacanze italiane, non è detto che nel film Michael Moore prenda il meglio del meglio, prende le cose più popolari, parto da un dato personale. Io facevo il liceo classico Foscolo a Pavia, d'estate io avevo 25 versioni di greco, 25 versioni di latino, e i temi problemi che dovevo fare, non mi ricordo neanche i libri che dovevo leggere, sempre sulla quindicina, come si dice. Quindi io sono a favore, ripeto, di un sistema calvinistico. Io penso che il dirigente scolastico debba fare i compiti di statistica, perché io amenità statistiche di questo livello le ho sentite raramente in radio e altrove. Non si può prendere un caso e dire: ah, allora quel caso dimostra, come avete detto prima, l'inconfutabile Umberto Eco. Bisogna studiare, soprattutto studiare la statistica. Ci sono fattori confondenti, ovvero sia, non si può dire che sono i compiti che fanno sì che la Finlandia, l'assenza di compiti fa sì che il sistema finlandese e i livelli di performance di studenti finlandesi siano ottimi, perché ci possono essere altri elementi come il livello culturale delle famiglie, il livello di risorse messe sulla scuola rispetto alle pensioni. Ci sono un casino di elementi ulteriori che vanno valutati. Si chiama regressione multipla. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni fenomeno non dipende da un fattore, dipende da K fattori. Questa è proprio la base della statistica. Non si può sentire un attacco ai compiti basato sul dire: ah, in Svezia o in Finlandia succede così. Non si può ascoltare. Sentiamo la bocciare immediatamente. Ma subito, senza neanche sedersi sulla gara. Parodi è stato bocciato all'esame di università di Puglisi. No, si sta scherzando. No, fatemi sentire un ascoltatore, poi Parodi le diamo da replicare. Hai inteso male, professore. Sentiamo Giuseppe da Pesaro, qualche ascoltatore, e poi torniamo da voi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Sì. State bene, immagino, no? Benissimo, comunque, si la spera. La domanda mia è quella, anzi, più che una domanda, è prima di tutto una premessa. Sì. Io sono certo, da quando ascolto Giannino, che lui minimo è un ex seminarista. Chiuso la parentesi. E con tutto quello che ne consegue. Non sono stato anch'io, quindi ho quasi la certezza che sia successo così. No, però Giannino smentisce. Giannino, ma non si dica Non è vero, ma è chiaro che anch'io smentisco, però adesso sono troppo vecchio per fare delle smentite. Comunque, io per i compiti a casa, io sono dell'avviso che sia obbligatorio farli fare. Obbligatorio. I genitori, se comincia ad andare avanti così. Adesso c'è il discorso del panino, poi c'è i genitori che assalgono i professori perché hanno dato un brutto voto, hanno dato una nota nel registro. Se andiamo avanti così, Giannino, la sua teoria del liberalismo all'interno della scuola, dello Stato, è troppo larga. Passano i pesce cani. Il liberalismo, se è solo per i pesce cani, non mi va più bene. Quindi ci vogliono delle regole. In Finlandia i ragazzini non fanno vacanza, ma fanno ricerca nei campi, fanno ricerca Giuseppe, allora, quello che è stata la critica con bocciatura di Puglisi, quella che invece è stata la mia critica Parodi, è questo: è vero, in Finlandia non studiano a casa, ma hanno un sistema scolastico totalmente diverso dal nostro, cioè fanno anche lavori manuali, fanno sport, aprono la mente, fanno riunioni, professori, presi, genitori, per fare percorsi mirati sui sistema scolastico di ogni allievo, quasi, cioè non è semplicemente dire non fanno i compiti, sono i migliori, o no Parodi? No, però un paio di precisazioni, così magari riesco a farmi intendere anche dall'esimio professore. Quando ho parlato di inoppugnabile a proposito della dichiarazione di Umberto Eco, mi riferivo al dato statistico, nel senso che tutti gli italiani o buona parte di essi detestano i promessi sposi perché sono stati costretti a studiarlo anche attraverso i compiti a casa. E non ho mai detto che i compiti a casa siano l'unico problema della scuola italiana. Però quando il ministro forse è il caso di apprezzare, vista anche l'autorevolezza della fonte, quando è stato chiesto al ministro della scuola migliore del mondo qual è il segreto, parole testuali, qual è il segreto del successo della scuola finlandese, la prima risposta, non la terza o la quarta, professore, la prima è stata: abbiamo eliminato i compiti a casa. Quindi non è l'unico elemento di debolezza del nostro sistema, ma di sicuro è uno degli elementi di maggiore criticità, sui quali si potrebbe intervenire facilmente, restituendo alla scuola il ruolo che le compete, che è quello di insegnare e soprattutto di insegnare a imparare, cosa che invece viene demandata ai genitori quando ci sono, perché molti genitori non sono in grado di sostituirsi agli insegnanti nel compito che dovrebbe essere. E qui c'è la questione che diceva Oscar del livello degli insegnanti, Qui no, insegnare a imparare è qui il ruolo dell'insegnante, perché quando l'insegnante dice copia il numero dal 1000 al 1100, Sul quaderno. Meno che mai lo può fare un genitore, sempre che il genitore ci sia, che sia presente, che abbia le competenze per farlo, ma perché mai dovrebbe sostituirsi alla scuola e l'insegnante? E non è vero che i ragazzi possono svolgere autonomamente i compiti assegnati. I compiti sono discriminanti anche perché indiscriminati. Uno stesso compito può essere un impegno di 10 minuti per un ragazzo, per un altro può essere un impegno di 2 ore, per un altro un impegno insostenibile. E se non interviene la famiglia, con mezzi propri, anche economici, abbiamo lo scandalo delle lezioni private in Italia, che è tra l'altro un mercato florido in nero, che si alimenta di questa pratica assurda, che può essere, con estrema facilità, senza interventi salvifici di ingegneria istituzionale o di riforme programmatiche, basta semplicemente, come fanno molti insegnanti italiani, ad esempio i 250 iscritti alla pagina docenti dirigenti a compiti zero, basta semplicemente eliminare i compiti e lavorare sul metodo di studio in classe, lo si può già fare, lo fanno. Sul metodo di studio, va bene, è chiarissimo, Parodi, non so se Puglisi, Oscar vuole replicare, Puglisi. Io volevo citare il libro Cuore, nel libro Cuore c'è di De Amicis, c'è De Rossi che è quello bravissimo, quello intelligentissimo, c'è Stardi, io ho un grande apprezzamento per Stardi. Perché Stardi è un po' gnocco, però si mette a studiare, fa i compiti, si mette con la testa sotto, si mette con la testa sui libri. Questa cosa per cui è evidente, sono d'accordo con Parodi sul fatto, viva Dio, che le differenze sociali possono avere effetti sul successo successivo dei figli. Benissimo, la scuola deve intervenire su questo per minimizzare o comunque diminuire queste differenze. Però c'è l'idea che qualcuno che è indietro, come si dice, che sente che non è pronto su un tema, deve essere motivato e facendo i compiti migliora. Io lo vedo nella mia esperienza, per esempio quando facevo il dottorato a Londra o il master, quando non facevo i compiti, che lì si chiamano problem set, ovvero sia gli esercizi settimanali da farsi per ogni corso, la volta che li facevo con meno impegno, poi facevo una fatica micidiale dopo, perché non ero al passo. Bisogna stare al passo, bisogna lavorare, bisogna sudare. Che messaggio diamo agli italiani? Io sono veramente esterrefatto. Fatto. Allora. Ma vedi, il professor Puglisi coglie un punto, perché io sorrido perché quando ho sentito collegare come fattore di causazione i compiti a casa e la scomparsa del il nero fiscale sulle lezioni date dai professori, mi scappa da ridere, perché è evidente che non c'è alcuna correlazione dimostrabile, no, alcuna. Quindi io capisco che ci sono tutti gli argomenti nel discorso pubblico per trarne vantaggio, però lì proprio non esiste la correlazione. Detto, neanche la causazione, lasciamo perdere, ma neanche la correlazione, sono due fenomeni completamente diversi. Detto questo, il problema è che questo è un paese renitente a fare i compiti a casa, in generale. Ce lo dica l'Europa o ce lo dicono i conti pubblici. Vedi la Fornero, passa l'ottava clausola di revisione della Fornero. I famosi compiti a casa. Torniamo a 61 anni per tutti, ma la politica dirà che la legge Fornero resta vigente. È così, cioè il problema non è la scuola. In generale andrebbe molto rivista, e su questo io sono d'accordo con Parodi, credo che saremo tutti d'accordo, tranne che ci faremo riferimento a modelli diversi, che questo è un paese renitente all'idea dei compiti a casa, cioè la fatica come premio diverso, non egualitario alle fatiche diverse. Vabbè. È questo, non all'italiano un battuto. Caro Oscar, qua partono già gli evviva Don Giannino, seminarista. Pure seminarista, va bene, dai. Ci sentiamo lunedì, tu oggi, domani, oggi pomeriggio, domani mattina, comunque invece, lunedì col grande Milan. Io invece vado a fare i compiti. Ciao. Ecco. Ciao.